I conti della belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Siminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti in questo inizio di weekend, in questo sabato mattina in diretta al 21 di maggio 2016, 10:07 primi e 53 secondi dagli studi di Radio 24 di Milano. I compari dei Conti della Belva, come sempre, sono felici di invitarvi in questo inizio un paio d'orette a ragionare sui conti pubblici, privati, quello che non va, quello che si può sperare, quello che ci fa incazzare, sull'economia italiana nel quadro di quella europea ovviamente. E grazie di essere qui, e prima di dirvi ovviamente di cosa ci occupiamo, per invitarvi a telefonare all'800 24 00 24, il vostro umile servo vi fa salutare però anche da Mario Seminerio, che è qui in studio con me. Gli altri ci raggiungeranno telefonicamente nel proseguo della trasmissione, quindi Mario, noi dovremo rinforzare anche per gli altri, per così dire, con il nostro solito spiritaccio gufesco. A volte avevo l'impressione che dovessimo cambiare la sigla, Mario, mettere proprio quella dei gufi la notte, però poi mi sono detto, no? Sì, possiamo provare. Però devo dire, noi non ci siamo mai arrabbiati per questa definizione, secondo me, anzi... Ma per carità, esatto. Anzi, io adoro i gufi, ma già li adoravo da prima, diciamo, che venissero nobilitati da Renzi. Per cui... Esattamente. Allora, di cosa ci occupiamo questa settimana? All'inizio facciamo una riflessione su dati mercato del lavoro primo trimestre, che hanno animato l'inizio di settimana, e qualche segnalazione del volumone, sono 280 pagine del rapporto annuale ISTAT che è stato reso ieri, che è una fotografia sul lavoro, l'occupazione, le famiglie, la popolazione, le pensioni, l'andamento della spesa pubblica nel 2015. C'ha delle pillolette abbastanza che consentono spunti per la parte successiva, nella quale invece ci poniamo un quesito che giro anche a voi, pregandovi di telefonarci all'800 24 00 24 e a darci la vostra opinione al 349 238 6666 su questo tema. Ora che abbiamo ottenuto la tanto agognata flessibilità da parte dell'Unione Europea, l'avrete letto, più 0,85 di deficit autorizzato e boom, bollinato dall'Unione Europea, ci dirà il governo di preciso come intende utilizzarla? Avremo il professor Luigi Maratin, che è consigliere del Presidente del Consiglio, insieme a noi, gli faremo questa domanda. Perché questa domanda? Perché, e qui sarei curioso che voi ci telefonaste, e, diciamo, il governo ci ha offerto fino a questo momento una ricchissima serie di alternative, sommando le quali però ci vogliono altro che 0,85 punti di PIL, ce ne vogliono 8,5 almeno, perché... In pochi giorni abbiamo appreso che è allo studio un intervento di riduzione, questa volta strutturale, del cuneo fiscale, anche perché senza di contribuzione si vede cosa succede sul mercato del lavoro, e ne parleremo. Abbiamo appreso che il Presidente del Consiglio vuole un intervento serio, strutturale, sulle aliquote dell'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche. Abbiamo appreso l'impegno per l'IRAP non è venuto meno per le imprese, perché quello doveva essere nel 2017, mentre l'IRPEF doveva essere nel 2018. Il governo ha confermato che sta lavorando a ipotesi di prepensionamento in legge di stabilità rispetto ai tetti della legge Fornero, e anche quelle, come sapete, hanno un costo in deficit. Allora, come vedete, ci sono almeno quattro opzioni tra le maggiori, e poi ci sono tante altre cose che però messe in fila non rendono chiaro quale sarà l'utilizzo per restare nei limiti, a meno che non si voglia poi non restare nei limiti. Ma insomma, voi che cosa vi aspettate? Quale di queste cose vorreste prima? Un intervento serio sull'IRPEF, uno sul cuneo fiscale, quello sull'IRAP, quello sui prepensionamenti, oppure non credete a niente, sono tutte chiacchiere perché si vota tra poco nel turno amministrativo e poi naturalmente a ottobre c'è il grande referendum sulla Costituzione. Fateci sapere la vostra. Il nostro compito è semplicemente quello di mettere in fila i numeri e vedere che non tornano, e chiedere al professor Martin se ha una risposta chiara, comprensibile, alla luce dei numeri da darci. Poi apriremo un altro capitolo, visto che la scorsa settimana ci siamo occupati dei conti di Roma, conti tragici in vista delle amministrative per il futuro chiunque sarà il sindaco, ci occuperemo questa volta dei conti di Milano. E guardate che anche a Milano, certo, stanno molto meglio che a Roma, sono molto più in equilibrio, non ci sono gestioni separate del debito, l'ATM fa utili a differenza dell'ATAC, però... Quel che volete voi, negli anni alle nostre spalle abbiamo avuto un aumento pazzesco delle sovraliquote fiscali, soprattutto per le imprese, ma anche sulle persone fisiche. Per fronteggiare il taglio e trasferimenti centrali, e anche però l'aumento della spesa corrente. Ma quando dico pazzesco, lo vedrete, avremo un ospite che ce lo spiega, siamo a percentuali quasi del 200% in 5 anni, cioè una cosa poco notata nel dibattito pubblico. Allora ci porremo il problema, cari milanesi in ascolto, per capire se c'è una prospettiva per fermarla questa tendenza, oppure se Milano con i suoi impegni futuri non ha alternative, visto che i trasferimenti, come per tutti, ma insomma, sono in continua e già certa diminuzione anche per gli anni prossimi, o altrimenti anche lì bisogna cambiare la struttura del bilancio, fare una riflessione. Tutto quello di cui in campagna elettorale non sentite parlare fino a questo momento, visto che abbondano solo le polemiche tra candidati. E a questo punto, Mario, in settimana, oltre a queste cose di cui parliamo, che altre cose da segnalare ti hanno fatto arrabbiare? Ma io volevo appunto segnalare due cose, vabbè, una poi la rivedremo. I dati sul lavoro, quindi attivazioni, cessazioni, eccetera. Ho visto un tweet abbastanza singolare del professor Pietro Ichino, che praticamente faceva le comparazioni su quadrimestre, quindi diciamo da dicembre 15 a marzo 16, per dimostrare che c'era stato questo forte aumento, diciamo, delle attivazioni nette, quelle al netto delle cessazioni. Ora, visto che oramai lo sanno pure i muri che dicembre 2015 è stato un mese anomalo, perché c'è stata un'esplosione di nuovi contratti a tempo indeterminato col Jobs Act, diciamo che manipolare i numeri in questa maniera è abbastanza triste, soprattutto se fatto da un addetto ai lavori che però evidentemente o ha troppa dimestichezza coi numeri o ne ha molto poca. Per cui di questo magari parleremo. La prima. Sì, speriamo che, diciamo, speriamo che sia la prima, perché sai, non vorrei troppo sopravvalutare le persone. Però diciamo, ecco, professor Ichino, non lo faccia più, perché non è il caso, diciamo. Già lei si è impegnato nelle ultime settimane a dimostrare che non è vero che c'è una distorsione del mercato del lavoro indotta dai sussidi. Se continua su questa strada, la sua credibilità la vedo maluccio. Poi l'altra cosa che diciamo completamente differente, io sto seguendo, ma da molto tempo, diciamo, la discesa agli inferi del Venezuela, diciamo, di questo paese che letteralmente galleggia sul petrolio e che è in condizioni economiche disastrose, frutto di anni di follie di politica economica, prima di Chavez, che però, diciamo, reggeva ancora, e dopodiché del suo delfino, il conducente di autobus Maduro, il quale ha evidentemente seri problemi. Però noto che nel dibattito pubblico italiano, che ovviamente è in tutt'altre faccende affaccendato, di questo si parla molto poco. Non vorrei che noi ci risvegliassimo di soprassalto quando in Venezuela ci sarà la guerra civile e una catastrofe umanitaria. Cioè, ricordiamo che c'è un cortocircuito istituzionale, cioè una maggioranza parlamentare che è l'opposizione a Maduro. Maduro si è letteralmente asserragliato nel palazzo presidenziale, pilotando la Corte Suprema, la quale ovviamente emette sentenze a suo uso e consumo. Personaggio ha chiaramente chiari segni di squilibrio, ad esempio dice che lui ha parlato con Chavez, che gli si è manifestato sotto forma di uccellino, proprio letteralmente me l'ha detto un uccellino. Poi un personaggio che ad esempio definisce froci i membri dell'opposizione, per cui diciamo c'è tutto quello che serve per discutere di queste cose. Naturalmente tutti i clown italiani che hanno sempre difeso il modello venezuelano in questo momento tacciono in attesa che quando comincerà veramente a scorrere il sangue per le strade potranno dire che è un complotto Yankee. Attenzione, seguite attentamente quello che succede anche in questi paesi così lontani da noi, perché magari si può anche imparare qualcosa ogni tanto. Io mi limito a segnalare solo alcune altre perle della settimana. La prima è stata l'annuncio della pressoché certa abolizione di Equitalia. Naturalmente le cartelle esattoriali passano all'Agenzia delle Entrate, però si abolisce Equitalia, e allora vi annuncio che è prossimo l'abolizione delle imposte, saranno ridefinite su poste. Naturalmente, esatto. Però capite che insomma mi pare che siamo veramente a Totò Sceico, ecco questa prima cosa. Seconda cosa, in questa settimana è battuto l'orologio perché è scaduto il termine per la segnalazione del fare l'autodichiarazione per l'esenzione del canone in bolletta, cioè nel caso in cui non coincidesse, per voi in ascolto, non coincidesse il canone elettrico, l'utenza elettrica, perdonatemi, con la residenza anagrafica. Ebbene, danno certezze cose come quelle che si leggono, e l'osservatore di Mannheimer oggi sul giornale a scriverlo, che in realtà se uno dà i sondaggi si capisce che per almeno 7 milioni di italiani il canone in bolletta o non hanno avuto tempo, o non hanno avuto modo, o insomma non l'hanno capito. Allora, accetto scommesse sul fatto di quante impugnative e che esplosioni di proteste ci saranno a luglio quando arriverà nel canone in bolletta, e milioni di italiani, secondo me un paio di milioni almeno di italiani, troveranno un canone che è già stato riscosso senza che loro siano nelle condizioni di doverlo pagare. Naturalmente però è una cosa tutta andata sotto traccia, e quindi a quel punto voi intanto avrete pagato, nel frattempo passeranno anni per averlo forse indietro, e nel frattempo questa Rai, di cui il governo si è impadronito per legge come nessun altro, ve lo ricordo, chiude i programmi di chi obiettava da un punto di vista come Massimo Giannini, da un altro punto di vista come Nicola Porro, solo per dirlo, ecco, cioè questa settimana che cosa ci ha regalato tra le tante altre cose. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci qui tornati in diretta dagli studi di Milano, Oscar Giannino. Mario Seminerio. Ci dice un ascoltatore: siete dei conduttori che predicate il buono che succede nel nostro paese, intervistate un'islamica facendola passare come l'altro noi, per la trasmissione precedente, non è l'islamica che intervistiamo. Detto tutto questo, allora iniziamo con la consueta sigla della rubrica. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa no. Allora, spiegazione, perché io in settimana ho ricevuto alcune segnalazioni di ascoltatori che dicono: a proposito, ma la sigla della rubrica di Mario Seminerio all'inizio di Conte della Belva, la crisi, se ascoltate bene la canzone, è scelta apposta e quindi la difendo, perché dice che la crisi resta quando c'è qualcosa che non va. Noi segnaliamo le innumerevoli cose che non vanno, quindi non siamo a quanti trimestri col segno più o meno per levarla. Questo è lo spirito, e a questo spirito dateci retta, che bisogna aderire perché ce ne sono tante. Da cosa cominciamo questa settimana, Mario? Allora, abbiamo avuto, come si diceva prima, la concessione della flessibilità. Questo dimostra che la commissione Juncker è massimamente politica e non è una commissione di burocrati. Poi naturalmente si può leggere dall'altro senso, cioè dire che è merito di Renzi se questo è successo, chiaramente ognuno può dire la propria, però cioè, io noto questo tripudio, no? Abbiamo avuto sti 14 miliardi, gente che si dà il 5, che festeggiano, fanno il trenino, eccetera. Poi naturalmente bisogna considerare che l'anno prossimo bisogna fare una correzione di 6 decimi di punto percentuale. Abbiamo poi anche da pagare tutte le cambialette che sono state realizzate, firmate da Renzi, che andranno all'incasso, tutte queste mancette che sono previste senza costrutto, tra l'altro, per cui non cambia la sostanza delle cose. A me fa piacere aver avuto questa flessibilità, anche perché non c'erano molte alternative, però guardate, come scrivevo ieri in un commento sul mio blog, il problema non sta nel fare deficit. Il problema sta nel fare deficit di qualità. E siccome adesso noto che c'è questa disperazione, dobbiamo abbassare l'IRPEF dal prossimo anno, allora la mia risposta è: scusate, perché avete buttato nel cesso e buttate nel cesso ogni anno 10 miliardi degli 80 euro? Del tipo, siamo riusciti ad abbassare l'IRAP, dovremmo riuscire ad abbassare anche l'IRES. Scusate, perché avete buttato nel cesso 4 miliardi e mezzo annui di abolizione della tassazione sulla prima casa? E così via. Cioè, tutti questi soldi, 20 miliardi di euro in un trimestre per la decontribuzione temporanea, che non serve a nessuno. Che non serve a nessuno, perché i posti di lavoro si creano in conseguenza della crescita economica, non di improbabili sussidi, perché se guardate nel 2015 la produttività del lavoro per ora lavorata è calata in questo paese, si parla sempre e soltanto di queste amenità, non si parla mai dell'andamento stagnante della produttività, che è l'unico indicatore dell'efficacia riformistica di un paese. Quindi, allora, Renzi ha fatto deficit di pessima qualità in questi ultimi 2 anni. Io non ero e non sono pregiudizialmente contrario a fare deficit, Però deve essere deficit di qualità, soprattutto deficit che abbia valenza erga omnes. Perché che adesso mi salti fuori dal nulla il ministro del lavoro Poletti a dire forse anticipiamo al 2017 la riduzione dei contributi per tutti, perché avete buttato 20 miliardi in 3 anni per una decontribuzione temporanea, quando bastava decontribuire da subito per tutti. Questi sono soldi letteralmente buttati nel cesso. Poi è inutile che pontifichiamo, a parte che sto pontificando anch'io, ma ognuno è proprio, diciamo, è inutile che pontifichiamo sul fatto che la Germania è cattiva, la Germania non ci permette di crescere, oppure da nessuna parte si esce dalle crisi senza fare deficit. Ho capito, però se voi fate un deficit così tipicamente italiano, cioè 1000 rivoli di mance prevalentemente elettoralistiche, vedrete il risveglio che avrete. Questo è il punto da sottolineare. Allora, nella settimana noi abbiamo avuto una raffica di dati dall'INPS, quindi stiamo parlando dell'osservatorio della precarietà, esattamente in linea con quello che diceva Mario, cioè quali sono gli effetti sul mercato del lavoro primo trimestre 2016 sul primo trimestre 2015 del venir meno, anzi della non venir meno, ma della radicale diminuzione della decontribuzione che è passata al 40% rispetto al livello dell'anno scorso. Riepiloghiamoli, cari topolini in ascolto, perché secondo me non avete trovato molto spazio sui giornali su questo. Allora, nei primi 3 mesi del 2016 i contratti a tempo determinato attivati sono scesi del 33% rispetto al 2015, cioè 162.000 in meno. Le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato sono anch'esse il 31% in meno. E al netto, quindi, delle trasformazioni, il netto delle attivazioni e cessazioni dei contratti è di meno 53.000 erotti contratti in meno. Nel 2014, anno senza decontribuzione, il saldo finale era meno grave, quindi questo significa che c'è un saldo aggiuntivo negativo di contratti tra attivati e cessati, che è proprio la conferma del venir meno di un effetto di droga precedente nel 2015, perché quando nel 2014 le cose andavano peggio, in realtà sul saldo nel primo trimestre andavano meglio. Ecco, per dirne alcune. In più, solo il 33% dei nuovi contratti è a tempo indeterminato, E il numero dei voucher, appunto, il canale di cui già vi abbiamo parlato, attraverso il quale c'è un'evasione fiscale sia dal lato domanda che dal lato offerta, in buona sostanza, il numero dei voucher nel primo trimestre 2016 sul 2015 è aumentato del 45%. Questi sono i datarelli su cui riflettere, per così dire, che non, ai quali non si può rispondere dicendo perché era meglio non farla la contribuzione. Sì, possiamo dire... Questa decontribuzione non andava fatta. O la facevate solo sugli occupati aggiuntivi sulle piante organiche, che avrebbero dato un boost più permanente. Certo, non avrebbero avuto l'effetto dei milioni e milioni su cui avete drogato anche l'informazione per tutto il 2015. Alla fine di febbraio, non so se ti ricordi la proposta del professor Nannicini, che diceva dobbiamo ridurre il cuneo fiscale di 6 punti percentuali, 3 per il datore di lavoro e 3 per il lavoratore, ma tramite decontribuzione si scava una voragine nelle future pensioni. Poi quella proposta è stata prontamente ritirata perché forse era un eccesso di accademia, ma voi rendetevi conto di questo: noi buttiamo 20 miliardi in 3 anni per questa decontribuzione a tempo, e dopodiché ci ricordiamo, cadiamo dal seggiolone o dal letto, ci svegliamo di soprassalto, capiamo che il cuneo fiscale è ancora lì che ci guarda, che si sta incuneando dove potete immaginare, e che cosa proponiamo? Una bella voragine nei futuri assegni pensionistici. Qui c'è un problema oggettivamente in questo paese. Allora, un po' di numeretti invece dal bel rap. Per una volta mi è piaciuto, di solito sono dei rapportoni, 2/3 delle cui cose servono anche un po' a soddisfare alcuni istinti di ricerca commendevoli, ma insomma non proprio utilissimi nel mestiere che faccio. E quindi, però devo dire invece che il rapporto annuale 2015 è uscito ieri dall'Istat, per una volta me lo sono proprio sciroppato con grande attenzione in ogni capitolo, ed è pieno di numeretti su cui riflettere. Ve ne segnalo solo alcuni. Per esempio, sul totale degli occupati aggiuntivi del 2015, che poi sono stati 186.000, attenzione, posso dire anche a quello che sentite dalla radio di Confindustria o sui giornali italiani, perché la manifattura ha avuto un saldo negativo, cioè quegli occupati sono tutti nei servizi. E attenzione, non sono nella componente più elevata del valore aggiunto dei servizi, perché sono nella componente alberghi, ristorazione, detto con tutto il rispetto, ottimo che ce ne siano centinaia di migliaia in più, però 173.000 dei 186.000 occupati aggiuntivi sono tutti in servizi non a straordinario valore aggiunto. Ce n'è una componente però anche significativa nei servizi alle imprese, di cui anch'esse però poi si fa un esame della produttività e si capisce che non eccedono per valore aggiunto. Ecco, e comunque il numero è quello. Primo, tanto per ristabilire un po' di verità sugli andamenti della spesa e delle entrate, anche l'Istat certifica quanto segue: spesa pubblica totale, spesa pubblica 2012 819 miliardi, 2013 818,9 miliardi, 2014 825,5, 2015 826. Certo, frenato la tendenza all'accrescimento molto elevato degli anni precedenti, ma come vedete il cambio di segno non c'è. Non c'è neanche una spesa fuori controllo, però il segno è più. Le entrate è aumentate in maniera ancora più significativa, perché nel 2012 erano 771,6 miliardi, 772 nel 2013, 776,5 nel 2014 e nel 2005 è 784 miliardi. Quindi insomma, tant'è vero che se poi andate al disaggregato che fa l'Istat, l'andamento percentuale 2015 vede contributi sociali, quelli raccolti, più 2,1%, imposte su redditi e patrimonio più 3,2%. Quindi basta andare a vedere nel frattempo l'indice del deflatore e si capisce che c'è un aumento reale significativo. Questa risposta alla domanda delle ultime comunicazioni del Presidente del Consiglio, perché quando vado con i miei amici e dico ho abbassato le tasse, mi rispondono basta l'Istat, il numero che vi sto citando dell'aumento di pressione disaggregato nel volumone lo trovate a pagina 26. Poi alcune osservazioni sugli occupati italiani. Il tasso di occupazione nel 2015 è 56,3%, media europea 65,6%. Tra uomini e donne occupati in Italia c'è un gap di 18 punti, in Italia, mentre in Europa di 10 punti. Andiamo a vedere per corte di età. Gli occupati 15-34 anni in Italia sono il 39,2%, in Europa il 55,7%. Quelli 35-49 anni in Italia, che sono diminuiti malgrado la decontribuzione eccetera eccetera, sono il 71,9%, in Europa l'80,2%. Cioè quando ci va bene ci sono 10 punti di differenza. Quelli over 50 anni in Italia sono il 56,3%, in Europa il 61%. Insomma, mi pare che no, ci siano molte. Soprattutto la staffetta generazionale, pagina 137 del volumone, è definita un'illusione, quella su cui si fondano tutte le prospettive del prepensionamento che vedrete di quella legge di stabilità. Un'illusione, perché c'è un'analisi di 20 pagine, sintetizzata a pagina 137. Come vedete, perché ve l'hanno dimostrato per 20 pagine, le skills tra giovani e anziani, le capacità di lavoro, le attitudini sono diverse, non vi sono dati empirici che confermano, testuali parole, che l'uscita degli anziani anticipata dal mercato del lavoro comporti automaticamente più occupati giovani. Ricordarselo, perché l'Istat ce lo dimostra, insomma. Poi, la spesa sociale, le pensioni, e ho finito, pagina 199-200, anche qui una ricchissima analisi comparata con gli altri paesi europei. Siamo in media europea con la spesa sociale, 27,7% di PIL, solo che noi ne destiniamo più del 50% alle pensioni, in Germania il 32%, in Francia il 40%. Riflettere su queste cose invece di dire tante sciocchezze. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in ascolto dagli studi in ascolto. Cioè, noi parliamo, ma noi vorremmo ascoltare, diciamo, voi, ascoltare voi. Telefonateci per dire qual è il mix che volete per l'utilizzo di questi 0,85 punti di PIL di deficit che abbiamo ottenuto. Il primo DEF del governo aprile 2014 per il 2017 aveva nelle tabelle di deficit previsto, quindi in termini programmatici, uno 0,3 di deficit, saremo al 1,8 di deficit, anzi la Commissione Europea dice no, sarete almeno all'1,9, quindi insomma la differenza è 1,6, sono 25 miliardi che Padoan ha ottenuto, caro Mario, con una trattativa tecnica serrata, e ci dice il ministro Padoan, poi siamo ben lungi dall'aver finito, perché alla fine sono tasse nostre. Stamattina in una trasmissione televisiva di dibattito, di talk, di approfondimento, leggevo, anzi sentivo cose del tipo: abbiamo messo la Germania in minoranza, no, perché sono tasse nostre, non abbiamo messo nessuno in minoranza, al limite ci siamo lievemente ipotecati il futuro, un granello in più di quanto già non si è ipotecato. Allora, la speranza naturalmente è, come dicevi prima, che questo deficit aggiuntivo sia di buona qualità, e quindi si tratta di capire che cosa fare. Leggo, prima di presentare l'ospite e fargli la domanda, leggo un passaggio che racchiude la sintesi di tutti i problemi, e questo è un articolo che i colleghi del Sole, Marco Rogari e Claudio Tucci, hanno scritto ieri, a proposito proprio del fatto, e questa sarà la domanda, delle tante ipotesi che abbiamo letto in questa settimana, ottenuto l'ok dall'Unione Europea sull'utilizzo e quindi sulle impostazioni fondamentali che ci aspettano in legge di stabilità. E dicevano Rogari e Tucci: per onorare gli impegni presi con l'Europa e far scattare le misure su pensioni, famiglie e decontribuzioni, oltre al taglio dell'IRES, che sin qui si sono sentiti, servirebbero non meno di 12-15 miliardi di euro, ai quali aggiungere le risorse legate all'obiettivo di deficit del 2017 all'1,8%, cioè i 15 miliardi per annullare, neutralizzare la salvaguardia fiscale sulle accise, che però rischierebbero di essere insufficienti per altri interventi, come ad esempio quello pur esso annunciato sull'IRPEF, che nel caso di una nuova calibratura leggermente a ribasso delle aliquote del 27%, quelle che sono sullo scaglione tra i 15.000 e i 28.000 euro, e del 38%, che lo sono sullo scaglione tra i 28.000 e i 55.000 euro, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, questa aliquota è iper ammazza progressiva, per così dire, sui 28.000 euro lordi con l'aliquota del 38%, però dice: per un intervento almeno minimo, proseguivano Rogari e Tucci, su questo servirebbero da 4 a 5 miliardi oppure fino a 9 miliardi a seconda del come si interviene. E poi abbiamo letto, proseguivano i colleghi, gli impegni per la famiglia, per il bonus bebè, le misure per i nuclei numerosi. Insomma, la somma di tutto questo è molto lontana dalla possibilità ragionevole di tenere l'1,8 come barra sul deficit e insieme tutti questi impegni, il cuneo, l'IRPEF, l'IRAP, la famiglia. Allora, domanda al nostro ospite, il professor Luigi Marattin, che ringraziamo e che è consigliere della presenza del Consiglio senza naturalmente aver abbandonato l'incarico universitario. Grazie di essere con noi innanzitutto, professor Marattin. Buongiorno, grazie a voi. Allora, l'ha capita la questione e noi le chiederemo con un po' di precisione di indicarci almeno il metodo col quale vi accingete a fare la scelta finale. La scelta finale si fa poi in legge di stabilità, ma quali sono le priorità vere, numeri alla mano, secondo quello che vi state concentrando a fare insieme? Ma guardate, innanzitutto una precisazione: lo 0,85% di PIL che abbiamo ottenuto dall'Europa è relativo al 2016. Sì, sì, certo. Quindi la domanda non è tanto come lo userete, ma è come l'abbiamo usato. C'è dubbio, però ne parlavamo in termini di spalmato pluriennale. Sì, sul pluriennale, diciamo, la flessibilità, che poi in realtà sul 17 è intesa come un'interpretazione di cos'è deviazione significativa, esatto. No? Perché l'Europa dice: dovete fare un aggiustamento strutturale dello 0,6, perché la famosa matrice delle comunicazioni del 13 gennaio scorso dice: per paesi come il nostro l'aggiustamento strutturale è maggiore di 0,5, e l'Europa dice: maggiore di 0,5 è almeno 0,6, mentre qualcuno potrebbe argomentare maggiore di 0,5 può essere anche 0,51, e siccome una deviazione non significativa, diciamo, possiamo considerare una differenza di 0,5 come non significativa, voi dovete fare un aggiustamento strutturale soltanto dello 0,15, 0,20, diciamo. Quindi comunque la vogliamo girare, sul 2017 questa concessione o questa interpretazione che vale per l'Italia come per gli altri paesi vale circa lo 0,5 e lo 0,5 di PIL. E la domanda, diciamo, sul 17 ha una risposta abbastanza semplice. Noi abbiamo una clausola di salvaguardia sull'IVA di circa lo 0,9 di PIL. Sì. Quindi anche qualora volessimo utilizzare tutta questa, chiamiamola pure flessibilità aggiuntiva nel 17, anche se, ripeto, è soltanto un'interpretazione su cosa si intende per deviare o no dal sentiero, non basterebbe, basterebbe circa per la metà per sminare le clausole di salvaguardia, perché altrimenti rischiamo di comunicare il messaggio che l'Europa ci ha riempito di soldi e che dobbiamo adesso decidere come spenderli. Questo margine sul 17 è circa la metà di quello che ci servirebbe per evitare, cosa che il governo ha già annunciato che farà, l'aumento dell'IVA, perché ricordiamo che la salvaguardia aumenterebbe le aliquote dal 10 al 13% sì, sull'IVA e dell'altro dal 20 al 22%. Non lo vogliamo fare, quindi occorre anche affiancarsi una robusta dose di spending review. Questo è il tema, quindi la domanda sul 17 che ci stiamo facendo non è tanto come ci mettiamo a spendere i soldi, ma come recuperiamo le risorse che ci servono non solo per finire il lavoro di sminare la salvaguardia, ma anche per adempiere ad alcune, diciamo, impegni e priorità di politica economica che il governo ha già annunciato. A questo riguardo, voglio dire, so che da qui a ottobre ci sbizzarriremo tutti, però non è che ogni volta che salta fuori una possibile idea questa deve essere aggiunta alla lista della spesa, altrimenti si creano anche delle aspettative. Noi chiediamo a voi di darci la priorità, perché noi non facciamo altro che registrare che c'è un profluvio. La priorità, guardate, ripeto, sono ragionamenti che sia a livello tecnico che soprattutto politico si stanno facendo. Sicuramente l'intervento sulle pensioni, sapete il meccanismo dell'APE, o con un acronimo un po' strano su cui sta lavorando tanto e bene Tommaso Nannicini, quindi il mantenere l'impianto della riforma Fornero che, diciamo, ha salvaguardato la sostenibilità del nostro sistema pensionistico, questo mi piace ricordarlo spesso, ma nell'ambito di quell'impostazione studiare un meccanismo innovativo, come avete visto, perché non è semplicemente lo Stato mette i soldi in tasca, mette le mani in tasca e paga, ma è un meccanismo che coinvolge, che crea un mercato, diciamo, per il prestito pensionistico, eccetera, è un punto su cui sicuramente l'investimento politico anche del governo è forte. L'intervento sull'IRPEF, io mi auguro, lo dico solo preciso, noi abbiamo parlato nel blocco precedente, mi auguro che tutti quanti abbiano il tempo di leggere le lunghe pagine che c'è nel rapporto annuale Istat dedicate alla dimostrazione, che è la loro conclusione anche di Istat, quindi non de parte, che dice: numeri alla mano non funziona la staffetta generazionale, se serve attraverso l'uscita anticipata degli anziani a creare posti di lavoro. No, ma guarda, io ne sono assolutamente convinto, io sono convinto, ma l'evidenza empirica lo dimostra, non c'è alcuna evidenza che abbassando l'età pensionabile si favorisce l'ingresso dei giovani. Per questo vale soltanto se la torta rimane ferma, quindi in un paese senza crescita, quindi io ne sono convinto, non è quella la ratio. Se possiamo contare sul fatto, vedremo poi se col coinvolgimento bancario, che il deficit aggiuntivo sia contenuto, appunto, avanziamoci, dovesse dare la sua priorità, lei tra IRPEF da una parte e IRAP che serve a un regime stabile dopo la decontribuzione, il decalage della contribuzione, quei effetti prima abbiamo analizzato, abbiamo ricordato il primo trimestre con gli occupati 2016 sul 2015 e IRAP. Se ci limitiamo alla questione fiscale, secondo lei l'impatto economico, non nel breve, che è un po' il limite delle misure fin qui adesso, ma nel medio-lungo, cosa consiglierebbe di anticipare dei tre dossier? Visto che bisogna avere delle misure poi di copertura fiscale che diventano concorrenti, perché se le trovi per l'una non è detto che le trovi per l'altra. Guardi, allora, considerato che il taglio dell'IRES è già incorporato nel tendenziale, quindi in teoria c'è già, no? L'abbattimento dell'IRES dal 27,5 al 24, poi il governo deciderà se mantenerlo, la destinazione in quel senso o no, ma è già incorporato nel tendenziale, quindi in teoria c'è già, che per me era una priorità abbassare, diciamo, la pressione fiscale anche sui redditi d'impresa. Però l'IRPEF era per l'anno dopo, era per il 2018. L'IRPEF, esatto, questo è stato l'annuncio. L'opinione del tutto personale è che sia arrivato il momento dell'intervento sull'IRPEF, ma anche perché, guardate, l'IRPEF ha 43 anni. Altro che. Comincia a essere un po' anzianotta, nel senso è stata stratificata, cioè, poi in Italia quando si fanno le riforme appunto si aggiungono, no? E quindi se guardiamo la struttura dell'IRPEF si è incasinata un bel po', se mi passate molto, tantissimo, ma infatti abbiamo ricordato la struttura della riduzione in Italia, si è snaturata, si è snaturata, c'è il salto di aliquota effettiva in corrispondenza nel ceto medio, eccetera, quindi figuriamoci, a me piacerebbe molto un intervento sull'IRPEF. Ora dovremo capire la tempistica e le possibilità, perché anche questa cosa del deficit aggiuntivo, io vi capisco, e poi c'è stata anche una piccola discussione con Seminario, non mi ha dato la notizia su Facebook, quindi non so. Aspetti, chiarimento in diretta. Posso chiarire? Io gliel'avrei concessa con grande piacere, ma siccome lei ha già raggiunto i 5.000 amici, ne ho tolto uno stamattina proprio a posto. Ah, guardi, allora faremo in diretta. Confermo immediatamente, allora. Era ovviamente una battuta, ma intendevo questo, no? Perché la piccola polemica era sul confronto preventivo consuntivo e poi la chiariremo. Sì. Però stiamo sui consuntivi, il deficit consuntivo si sta riducendo in Italia, siamo andati dal 3 al 2,6. Infatti al 2,3, la mia polemica è solo che ci prendiamo sempre ulteriori margini per diluirla nel tempo, ma sta diminuendo di 0, di 1, di 0,1. La progressione è abbastanza incoraggiante, 3%, 2,6, 2,3, 1,8 e poi andremo. Il nostro problema è il debito, esatto. Come sappiamo poi risente anche di alcune misure di cassa, no? Perché tutta la partita, poi ce ne siamo dimenticati, del pagamento dei debiti della PA. No, infatti. Quella influisce sul fabbisogno, però i debiti erano da pagare, assolutamente, ma più che da pagare dobbiamo evitare di crearne dei nuovi. Bravo. E anche su quello alcune cose l'abbiamo fatte, no? Perché i due veti legislativi, insomma, sulla la riforma della contabilità. Comunque, fino a questo momento, se ho capito bene, lei direbbe, io per esempio sono d'accordo per rinforzare, visto che nel medio non possiamo avere certezze sulla domanda estera, visto i contributi netti negativi che vengono dalla domanda estera al PIL e abbiamo la ripresa dei consumi, io sarei per rinforzare di fronte a redditi disponibili che sono andati, come sappiamo, la componente rivolta ai consumi, e su questo io direi che l'impatto che può avere una riflessione organica, però non una limatina all'IRPEF, quello secondo me è un effetto di medio periodo a cui guardare, ma che potrebbe essere autoportante, per così dire, dopo un po'. Questa è la mia convinzione, visti gli effetti molto discutibili invece della massiccia decontribuzione, perché quei 18-20 miliardi, mio Dio, averli tenuti, dati a quegli organici aggiuntivi, per esempio. Però, ecco, allora io sono d'accordo su questa cosa dell'IRPEF. Temo un po', e questo tra un minuto, la domanda che faccio a Maratin fin da adesso, tra un minuto è questo, temo un po' che questa cosa dell'IRPEF sia, cioè che si pensi soprattutto a una botta di tipo che sia più chiara agli elettori nel breve, per così dire, perché lo sappiamo, come è ovvio, le scadenze politiche poi hanno la loro influenza, a ottobre c'è il referendum, al di là delle amministrative, mentre invece secondo me l'IRPEF ha bisogno proprio di un lavoro serio, più che dire cari contribuenti da questa soglia di reddito per voi facciamo. Ecco, io questo voglio sapere come la pensa lei, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati in diretta con noi il professor Luigi Maratin. Nel frattempo Mario Seminario siamo riusciti a stringere amicizia su Facebook, per cui grazie. Allora, diciamo, sull'IRPEF ci sarebbe bisogno di una manutenzione organica o di una riflessione complessiva su alcune aliquote. Il rischio, professor Maratin, non è quello di un colpo invece che si concentra su un punto molto chiaramente individuato da comunicare agli elettori, il referendum e così via. C'è questo rischio? Ci può dire no, questo rischio, noi non cadremo in questo rischio? Sono scelte politiche, ripeto, i rischi ci sono sempre. Il problema qual è? Che l'IRPEF è una bestia talmente grossa, sono più di 150 miliardi di gettito, che per avere un intervento veramente significativo deve avere due cifre, ecco, no? Le due cifre sbattono contro il vincolo di bilancio di cui parlavamo prima, che per noi è una priorità, comunque il consolidamento della finanza pubblica. Questo è il problema. Però, qual è il però? L'IRPEF, ricordate gli 80 euro, no? Gli 80 euro, anche la polemica del fatto che contabilmente sono maggiore spesa, perché sono trasferimenti, perché all'epoca, con la fretta, diciamo, non ci fu tempo di intervenire sulla struttura delle aliquote, si preferì, diciamo, dare il bonus. Però quelli sono 10 miliardi a disposizione, ovviamente a parità di effetto, no? Cioè, sto dicendo, se davvero ci mettiamo in testa di rifare e semplificare la struttura dell'IRPEF, quei 10 miliardi già spesi e già incorporati, quindi non avrebbe effetto per il contribuente se non a livello redistributivo, probabilmente è un margine che si può utilizzare se dovessimo veramente rifare la struttura dell'IRPEF. Qualsiasi miliardo in più ovviamente a valere sul deficit, è una dote aggiuntiva che può essere utilizzata per semplificare gli scaglioni, per ridurre gli scaglioni. Il problema dell'IRPEF è che è talmente grande che ha bisogno di un intervento significativo, però dicevo quei 10 miliardi lì, ma se vuole anche quelli delle addizionali, perché sa, dipende sempre su che ottica ci mettiamo. Però scusi, abbiamo le addizionali regionali, le addizionali comunali, uno potrebbe anche dire è il momento di semplificare anche lì chi agisce sul reddito. E allora, ma il problema è che se uno adotta questo, che è comprensibile, è realistico la premessa che lei ci sta facendo, perché è vero, l'IRPEF è un bestione, e quindi solo che continuando a ragionare così, per ragioni che capisco, per il ciclo delle trattative quattro volte l'anno con l'Unione Europea, no, ma anche per il ciclo elettorale, visto che in Italia c'è sempre un'elezione anche di condominio, no, da guardare. Noi andiamo per derive inerziali, interventi al margine, come abbiamo fatto troppe volte sul mercato del lavoro, e da questo punto di vista noi non riusciamo davvero a impostare un intervento che abbia la possibilità poi di perseguire finalità nel medio lungo e di raddrizzamento di alcune questioni fondamentali tra per esempio stock di patrimonio e flussi che invece bisogna rianimare di redditi rispetto a molto di quel patrimonio che attualmente è mano morta, tra tasse di interesse negativi, mancato controllo del mercato proprietario e così via. Allora questo è un po' il limite di fondo, che si finisce per intervenire sempre un po' così, no? Però ecco, volevo spezzare una lancia, diciamo, l'argomento, il ciclo politico, il ciclo elettorale, uno la può pensare come vuole sul bonus ai 18 anni, no? Io non entro nel giudizio, io la penso positivamente, però rispetto a tutte le opinioni, il Presidente annunciava l'altro giorno il bonus ai 18 anni lo diamo dopo le amministrative, quindi qualche piccolo segnale del fatto che questo governo non cerca di dare, come beh, dire... Ma la traduzione, è a seconda di come votate! Ma scusi, ma questa non è la scarpa destra che segue la scarpa sinistra? No, scusi, già l'intervento è approvato in legge di stabilità, non è come se me lo rimangio, sto dicendo, materialmente lo metto in campo, tanto in questo paese finché non arriva in busta paga è come se non esistesse, certo. Però anzi, nei conti noi ce l'abbiamo, stiamo dicendo soltanto dopo. Ve lo faccio vedere non prima del voto, altrimenti pensate che sto comprando il voto. Ovviamente questo è un piccolo esempio per dire. Non è che si interviene sul fisco per motivazioni elettorali, però scusi, ma qui stiamo parlando di una erogazione una tantum per i soli diciottenni di quest'anno, quindi diventa una cosa assolutamente poco organica. Ma l'ho usato come esempio, l'ho spiegato male, no? Perché è un po', rischia di essere un esempio, un po' il dito nell'occhio, rischia di essere un esempio infelice, professore. Uno la può pensare come vuole sul merito, sto dicendo questo, sono dei soldi da dare a della gente, in questo caso di diciottenni, lo prendiamo come proxy, come strumento per dire noi questi li diamo un attimo prima delle elezioni oppure dopo, quindi era soltanto, poteva essere qualsiasi altro esempio, poi sul merito dell'esempio ognuno la pensa come vuole, però è un indicatore di un comportamento che quando il governo ha da mettere i soldi in tasca a qualcuno, finora ha dimostrato di dire non è che lo faccio per forza prima delle elezioni così mi voti, lo faccio dopo, così sgombro il campo da quel sospetto. Comunque prendiamo un impegno, diciamo una volta ogni 6-7 settimane, di qui alla fine dell'anno rifacciamo il punto su che cosa bolle nella pentola governativa, sulle priorità e le coperture, perché come avrete capito, cari ascoltatori, ci sarà un problema di copertura, un problema di individuare quelle più giuste a seconda del mix. Grazie al professor Martin, torniamo dopo generale. Della belva. Ed eccoci tornate qui dagli studi di Milano in diretta ai Conti della Belva, Radio 24. Oscar Giannino e Mario Seminerio. Cari ascoltatori, vi abbiamo risparmiato in questa puntata, perché molto avevamo ceduto in quelle precedenti, delle osservazioni sul sistema bancario. Io ne faccio solo due in punta proprio di fioretto, per così dire. Incomprensibile atteggiamento da parte degli azionisti di controllo di Unicredit, che più giorni passano più fanno tenere nell'oscurità il mercato, più aggravano l'impressione del mercato che alza l'asticella degli aumenti di capitale che a questo punto si aspetta. È esattamente quello che loro non vogliono fare, quindi Abbiamo capito che si parla di chi deve guidare la banca al posto di Ghizzoni. C'è l'ipotesi di un piano industriale con Mediobanca che si fonde con Unicredit, che a molti azionisti non piace per niente e che sullo sfondo hanno fatto girare i nomi più diversi di chi può essere capo azienda. Ma una cosa è sicura: preferiranno vendere invece che ricapitalizzare. Si tratterà di capire che cosa vendono. Quello che è chiaro è che la strategia di comunicazione al mercato ha aggravato la sensazione della loro crisi, non ti pare, Mario? Sì, è abbastanza opaca come comunicazione. Io sinceramente spero appunto che Unicredit possa risolverla rapidamente e uscire dalle nebbie, perché ricordiamo che Unicredit è l'unica banca italiana che ha lo status di istituzione finanziaria sistemicamente importante. SIFI. SIFI, esatto. In pratica è una too big to fail su scala planetaria, e quindi da questa designazione derivano enormi responsabilità per gli azionisti. Poi naturalmente ci sono dentro delle fondazioni, cioè dentro un fondamentale azionista estero, ci sono altre cose. Io non entro nei dettagli, perché comunque penso che gli azionisti debbano fare le loro riflessioni, però fatele rapidamente, o come si direbbe in altri contesti, fate presto, perché la vostra banca è la più importante banca italiana con rilevanza sistemica e di tutto abbiamo bisogno, fuorché di nebbia che avvolga Unicredit in questo momento. Comunque si parla di cessione di quote di Fineco, di smobilizzare Pecao, eccetera eccetera, ma viva gli aumenti di capitale per quello che mi riguarda, e correzioni a perimetri e strategie che nascano però da riflessioni di correzioni di perimetro e strategia, non dal punto di evitare non da vendere i gioielli di famiglia, capito, per evitare di fare aumenti di capitale, perché se abbiamo sempre il solito problema delle fondazioni che non hanno i soldi, in un modo o nell'altro bisognerà uscirne prima che il trauma ci avvolga. E questo è, tanto per essere, tornare a un fondamentale delle debolezze del sistema italiano. Quanto a Intesa, ieri notizia di cessione di 2 miliardi e mezzo di crediti al consumo in bonis, paradosso dei paradossi, cioè le banche italiane, anche quelle migliori come Intesa, ormai cedono i crediti migliori per tenersi le schifezze. Come si spiega questo, Mario? No, io non ho idea, però effettivamente se si cedono i crediti in bonis per liberare spazio di credito nello stato patrimoniale, poi bisogna anche cercare di gestire le sofferenze e quelle di peggiore qualità. Per cui alla fine, cioè, tutto si tiene, a meno di restare con un portafoglio che la cui qualità progressivamente peggiora. Che non mi sembra una gran trovata. No, questo serva ad asseverare che di fronte al mercato, poiché se si cedono le parti migliori e più coperte, si può dire in vista di nuovi meccanismi, perché questo è il sospetto che ho io, ma come vedete noi le operazioni di mercato le stiamo facendo con un ottimo grado rispetto a quello, al famoso abbattimento di novembre, perché io temo che ci sia un po' di regia sistemica. Tutto dipende dal tipo di sofferenza. Se poi cominciamo anche a vendere i prestiti in bonus, vabbè, cioè, si libera spazio nel bilancio, ma non so per farci cosa. Esattamente. Però noi adesso aspettiamo Veneto Banca, ecco. Aspettiamo Banco Popolare. Banco Popolare ha già azionisti, per cui alla fine verranno presi per le orecchie e portati a fare il loro dovere, per cui il problema credo che lì non si porrà, perché altrimenti l'aumento di capitale sarebbe talmente diluitivo da spazzarli via. Certo. Su Veneto Banca ho un po' di dubbi in più. Sì, anch'io, e questo vedremo. Allora, iniziamo a sentire un po' gli ascoltatori. Giulio da Genova. Giulio, prego. Buongiorno, Giannino. Buongiorno. Senta, se lei mi dà una mano a incontrare il ministro Padoan, io ho non una, ma ben due soluzioni per risolvere i problemi del bilancio del nostro paese. Ale, e glieli vado. Cosa da poco, no? Sì, cosa da poco, già ben va due. Vado con le due proposte. Allora, la prima, intanto io ho letto una pagina in settimana su Repubblica, dopo uno dei soliti scandali immobiliari, dei vescovi in Liguria, eccetera, dei dati che mi hanno veramente colpito. Il 20% del patrimonio immobiliare italiano è posseduto dalla Chiesa, 115.000 immobili per un valore di 1 miliardo. Lei si immagini se riuscissimo a far pagare le tasse che paghiamo noi comuni cristiani? Scusi, mi posso far osservare che in quello che ha detto c'è una cosa che non funziona. Può essere il 20% del patrimonio immobiliare italiano una roba che vale 1 miliardo? No. Ecco, no. Però detto questo, quindi quel numero che ha letto non sta in piedi. Però detto questo andiamo avanti. Valore 1 miliardi, 20% patrimonio immobiliare in mano alla Chiesa. Vabbè. 115.000 immobili. Allora, se facessimo pagare le tasse che paghiamo tutti noi sulle nostre case a questi signori, avremmo risolto già il problema del bilancio, perlomeno gli altri, è come gli altri tassati, i comuni cittadini, pagherebbero molto punto. Meno. Il secondo punto, mi permetto un po' di ironia, perché il dato mondiale di queste proprietà della Chiesa, sempre nel settore immobiliare, dice che nel mondo il Vaticano S.P.A. possiede 2.000 miliardi, valore degli immobili della Chiesa nel mondo 2.000 miliardi, che se non sbaglio, mi corregga lei, coincide esattamente con il nostro deficit, corretto? Però, scusi, però lei vuole risanare il debito italiano con i beni di uno Stato estero? Con i beni di uno Stato estero. Certo, ci invadiamo. Dichiariamo guerra al Vaticano? No, lo invadiamo, mano militari, con l'alibi delle forti intromissioni ai nostri problemi, veda unioni civili, e praticamente annulliamo il nostro debito. Giulio, dopo avercelo spiegato, si è giocato la possibilità di incontrare Padoan. Credo che esista. può provare a vedere dove ha. Però lo faremo il 20 settembre. Esatto. The sequel, diciamo. Sequel. Va bene, grazie Giulio Giugno. Però vedi, ogni tanto ci sono un po' di sani anticlericalismi italiani. Ci sono. Certo, comunque guarda che hanno oggi dei presupposti giuridico-finanziari. Posso dire, c'è un'altra telefonata o posso fare un paio di battute? No, ci sono altre telefonate, ma fare un paio di battute. SMS. Questo l'ascoltatore 835. Ma voi avete una corrispondenza d'amorosi sensi. Ma cioè, ha cominciato dicendo: "Ah, certo che per voi Venezuela di Maduro è il Bengodi, non il governo italiano". Io veramente ho detto il contrario, poi dopodiché ha proseguito dicendo: chiacchiere, lo stesso Cifarelli, uomo del fare, si è stancato di fare la comparsa in questo salotto di perfide e maldicenti pettegole maledetti". Qualche minuto dopo, non contento, ha scritto, reiterando il concetto perché è ripetita Juvent: "Maledetti, con il vostro lavoro di pettegole guadagnate poco, ma vi potete permettere di sparlare perché fate soldi con il trading, scritto TRE, da posizione privilegiata". Vabbè. Maiuscolo, maledetti. Vabbè. Ora, è vero che noi facciamo un po' gli assistenti sociali in sta trasmissione, però attenzione a quello che assumete di prima mattina. Ma dai, noi nei confronti di gente che ha una vita molto amara siamo un punch and ball, è così, no? Funzione. Sarai tu un punch and ball, diciamo. Volta. Io sinceramente no, ecco, però va bene, cioè, ci dividiamo i compiti. Esatto. Okay. Allora, Dario da Gorizia, prego Dario. Sì, buongiorno dottor Vincenzo, grazie per avermi chiamato, mi scusi, ma l'ha fatto veramente ridere queste ultime battute che avete fatto, perché è veramente molto sagace. Senta, io le stavo chiedendo semplicemente una cosa perché non sono riuscito ad avere risposte in altri modi. Perché tutti questi soldi buttati via, visto che comunque la spesa pensionistica è difficilmente comprimibile in una nazione di vecchi come siamo noi, purtroppo, che ormai non si stimola l'edilizia, ma quella minuta, non parlo delle grandissime infrastrutture tipo il ponte, tipo queste robe qua. Dico, questo farebbe da leva, ma in una maniera impressionante. Mi può dare questa risposta? No, guardi, sul problema dell'edilizia lo trova in ogni rapporto italiano dedicato ai problemi della crescita, visto che siamo in presenza di una perdita del totale valore aggiunto dal 2007 al 2015, che ormai continua a essere, malgrado i primissimi segni di ripresa del 2015, di ripresa degli investimenti, continua a essere superiore al 40% totale, quindi con decine di migliaia di piccole imprese che sono morte. Su questo, in parole povere, se dovessi dire un dibattito tecnico, è perché la vera risposta è: tutti stanno ancora riflettendo sul fatto che l'edilizia non potrà mai più tornare a quella che era prima. La famosa edilizia minuta, leva tradizionale, no, non solo in Italia, ma di una crescita labor intensive invece che capital intensive, come l'abbiamo conosciuta e praticata dopo lo sterminio di decine di migliaia di micro unità di impresa esattamente titolari di quel tipo di attività edilizia, in Italia non ci sarà più come prima. E questo, io lo so che è doloroso dirlo, però è quello a cui arrivano tutti gli studi che ho letto in proposito. Quindi c'è una, e qui ha ragione invece, c'è un'esitazione su quale strada imboccare, perché fino a questo momento lo sblocco delle spese infrastrutturali locali c'è, non c'è, perché torniamo al punto che il meccanismo per pagare i debiti non ha ancora funzionato del tutto, quelli della pubblica amministrazione che erano soprattutto in questo settore. Le grandi opere infrastrutturali, Juncker, eccetera, eccetera, mi scappa un po' da ridere, ma sul punto che ha sollevato lei c'è un'amara cosa da dire, cioè noi come prima non ci torniamo più, e tra virgolette forse anche un bene, se posso dire, perché era uno dei settori, certo, occupazione molto diffusa, non c'è dubbio, molto nero anche, diciamocelo pure, ma caratteristica di un paese a basso valore aggiunto. La radice della bassa produttività è proprio questa frenesia di cementificare tutto. Quindi adesso lei dirà, ma allora è meglio così e niente? No. Però può lavorare ad esempio contro il consumo di suolo con un tipo di edilizia diversa, riqualificazione al risparmio energetico. Ambientale. Esatto, si può fare esattamente su quella strada, però evitiamo di usare approcci del tipo basta avere dei cantieri in giro per l'Italia e il problema è risolto, perché la strada non è quella né per l'impatto ambientale né per le prospettive di valore aggiunto, ecco, che è una cosa a cui noi dovremmo guardare. Allora, un minuto, torniamo. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati qui in diretta in studio ancora da Milano, Oscar Giannino, Mario Seminerio. Allora, mentre poi prendiamo qualche altra telefonata e rispondiamo a qualche altro ascoltatore dei messaggi, apriamo un'altra finestra, come abbiamo promesso settimana in settimana, man mano che ci avviciniamo ai turni amministrativi, dare un po' di spazio ogni sabato almeno a qualcuno dei grandi problemi aperti nei bilanci, nei conti pubblici delle grandi città in cui si vota. Abbiamo visto il disastro di Roma sabato scorso e ci poniamo adesso un problema che qualitativamente è molto meno grave che di quello di Roma, che è un disastro certificato con squilibri strutturali di oltre 1 miliardo persistenti ancora oggi nei conti, come abbiamo visto sabato scorso. Ma a Milano pure, sorpresa, sorpresa. Certo, le cose vanno meglio, ma sono andate meglio grazie a un'esasperante strategia fiscale. Io vi dico solo che le entrate della tassa comunale a Milano hanno raggiunto nel 2015 quota di 1,5 miliardi. E stiamo parlando, rispetto al periodo Moratti, di 770 milioni in più, cioè c'è stato, se uno va a vedere sul totale delle entrate tributarie del comune, sono aumentate del 100%, 770 milioni al doppio, e a cui vanno aggiunte nel 2015 135 milioni di entrate dalle sole sanzioni, quindi multe stradali, eccetera, eccetera, eccetera. Certo. Anche a Milano, come nelle altre grandi città, diminuzione dei contributi statali, perché Roma ha tagliato, i contributi da Roma erano 728 milioni nel 2010, 476 nel 2014, 395 nel 2015, si ridurranno ancora, si sa già, fino al 2017 diventeranno 318. Però che cosa ha fatto la giunta Pisapia? Ha ricorso al debito e ha aumentato le tasse. Questo è il punto, ha aumentato le tasse, ha aumentato anche i dividendi straordinari, ha fatto 44 milioni di dividendi straordinari in più dalle società partecipate, la SEA, quella degli aeroporti, ma anche da ITM, i dividendi straordinari e quelli ordinari. E la spesa corrente, a fronte di tutto questo, voi direste, ma allora Milano ben gestita, diminuiti i trasferimenti, la spesa corrente è scesa? No. Perché passare da 2 miliardi 580 milioni a cui era già assente nel 2014 a 2 miliardi 810 milioni nel 2015. Quindi la spesa è salita, i trasferimenti diminuivano, le tasse alzate tantissimo per coprire la spesa, spremute le partecipate. E le sovraliquote fiscali come sono andate? Ecco, allora, per capire bene che cosa è successo e che cosa ci si può aspettare dal nuovo sindaco, chiunque egli sia e sarà scelto dai milanesi, abbiamo con noi il vicepresidente della Lombarda, Carlo Bonomi, che ha proprio la delega anche sulle questioni fiscali e della competitività. Grazie di essere con noi in questo sabato mattina, Bonomi. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, di quanto è aumentata negli ultimi anni la pressione fiscale con le sovraliquote locali a Milano, nella grande Milano, per le imprese manifatturiere del terziario? Come ha anticipato lei, ci troviamo di fronte a dei numeri da bollettino di guerra. Gliene cito due giusto per darle subito la dimensione. Un capannone industriale di 5.000 metri quadri a Milano nel 2010 pagava 14.175 euro di tasse, nel 2015 ne paga 42.014, un innalzamento del 196,40%. Ma la cosa peggiore sugli uffici, perché ovviamente Milano ormai sta diventando una società di terziario, Tenga conto che un ufficio medio di 500 metri quadri pagava 3.714 euro nel 2010, ne paga oltre 13.000 nel 2015, un innalzamento del 265%. Cioè, sono mostruoso. Numeri da bollettino di guerra. E però come dice Renzi, non capisco perché mi dicono che non credono che le tasse stiano calando. È un mistero. Sentite che botte. È un mistero, non si riesce a capire perché, è un complotto. Guarda, anch'io faccio fatica a capire, perché quando c'è un leggero aumento delle tasse a noi costa centinaia di euro, e quando ci parlano di sostanziale taglio delle tasse ci fanno risparmiare pochi centesimi. C'è sempre qualcosa che non torna. Chiaro. Senta, ma quando si è in presenza di aumenti così significativi, pur attuati però da una giunta che... ammettiamolo, diciamolo, questo è un fatto oggettivo, io lo dico da uno che fa informazione, in questo momento non parlo ovviamente con la minima venatura politica, anche lei fa parte di un'associazione che non fa politica, non si schiera per motivi di partito, ma guarda i numeri, alle cose, negli interessi dell'impresa. Però la giunta Pesapia in realtà ha cavalcato questa immagine di efficienza, tutto sommato di efficienza, di spirito costruttivo, però i numeri sono quelli che ci ha detto lei. Allora, da questi numeri, rispetto alle tendenze che voi avete studiato, a questo punto anche pluriennale, dell'impostazione dei numeri del bilancio di Milano, che margine consentono per capire a voi imprese milanesi di credere possibile davvero che si faccia una marcia indietro, o solo fermarsi negli aumenti, visto che gli aumenti sono dell'ordine del 200%? È possibile, secondo voi, fare anche una marcia indietro e tornare a diminuirla, una pressione che è cresciuta del 200% in 5 anni? Noi riteniamo che ci sia la possibilità di farlo. Però si fa solo con un taglio della spesa pubblica, cioè l'efficienza sulle tasse si ottiene solo col taglio della spesa pubblica. Come diceva lei, la spesa corrente in questi anni è aumentata nel Comune di Milano, non è diminuita. Sì. Quindi se non si torna a fare efficienza della pubblica amministrazione, della macchina amministrativa, il taglio delle tasse non avverrà mai, anche perché va riconosciuto all'amministrazione pubblica, come diceva lei, nel 2010 ottenevano 728 milioni di euro di trasferimenti allo Stato, nel 2015 sono stati solo 350 milioni, peraltro al lordo dei fondi compensativi, quindi nella realtà al Comune di Milano ne sono rimasti meno. Questo è un dato oggettivo, gli va riconosciuto, però noi vediamo che, cito anche qua un dato giusto per dare una dimensione, il Comune di Milano ha 16 banche dati che non si parlano tra di loro. Cioè, questa è una cosa che non è inaccettabile, perché è ovviamente è un'area in cui si potrebbe risparmiare, pensiamo solo ai contratti di manutenzione, alle ore perse dai vari uffici per cercare di riallineare i dati. Queste sono cose che non sono più accettabili. E tra l'altro ho letto che una cosa che avete elaborato voi, parlando in questo caso della grande città metropolitana, cioè la città metropolitana deve diventare già, e già nel nostro ordinamento, anche se non si capisce perché, sembra che ai sindaci delle grandi città sembra non interessare, come dire, ma già non abbiamo i soldi per i comuni, figuriamoci se dobbiamo progettare su scala di grande città metropolitana. Invece anche per Milano ovviamente è quella la dimensione. Ho visto che voi siete andati a contare, per esempio, quante diverse imprese di trasporto insistono nell'area di Milano. Avete detto, naturalmente, qui una funzione di ticketing comune tra questi 8 enti diversi che si occupano del trasporto pubblico locale nell'area più estesa della grande Milano, quindi con le decine di comuni che fanno parte però integrante dell'area amministrativa della città metropolitana di Milano, non c'è neanche una cosa di bigliettazione comune. Cioè, in realtà, di margini per efficienza della spesa, facciamolo capire agli ascoltatori, non è che si sta tagliando come sempre servizi essenziali, si sta parlando di tagliare la quantità di spesa per organizzarli in maniera più efficiente, rendere davvero fruibili. Assolutamente, lei ha perfettamente ragione, proprio il tema del trasporto è l'esempio classico. Noi abbiamo 8 enti che se ne occupano, abbiamo l'amministrazione pubblica tramite la sua partecipata ATM che fa dei piani di trasporto pubblico, ma li guarda solo all'interno del Comune di Milano. Ma cosa succede fuori? Noi a Milano abbiamo ogni giorno un'entrata molto importante di persone e anche altrettante che ne escono. Quindi se tra ATM e quelle che sono per esempio la gestione delle linee private di trasporto pubblico, quelle di competenza regionale, non si parlano e non si integrano, noi spendiamo una marea di soldi senza dare un servizio ai cittadini. Quindi non si tratta di tagliare servizi, ma di fare efficienza. di renderle compatibili con quelle che sono poi le dinamiche di trasporto a livello regionale. Va bene, io intanto ringrazio Carlo Bonomi e vedremo, anche qui a Milano vi garantisco, ieri c'è stato il primo faccia a faccia tra i due candidati frontrunner, ce ne sono tanti altri, e noi li abbiamo intervistati, io ho intervistato Marco Cappato dei Radicali, abbiamo sentito candidato dei 5 Stelle, però ieri c'è stato il primo faccia a faccia a Milano qua, metà pomeriggio, tra Stefano Parisi per il centrodestra e Giuseppe Sala del centrosinistra. Devo dire, molta politica, pochi numeri, pochissimi numeri, perché su questa roba delle tasse, anche a Milano, degli aumenti di spesa corrente e di che cosa succede, la diminuzione nel bilancio di quest'anno della spesa per investimenti è pari al 50% rispetto a quella dell'anno scorso, e quindi il nuovo sindaco dovrà fare delle scelte molto pesanti. Vedremo che cosa succederà, grazie a Carlo Bonomi e a quello che fa Asso Lombarda per leggere in trasparenza numeri di cui anche i grandi giornali milanesi secondo me si occupano un po' troppo poco. Torniamo tra un minuto. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati qui in diretta in studio, qualche altro ascoltatore con SMS, Mario che... No, devo dire che si sono improvvisamente ammutoliti. Beh, ti credo, tu li schiaffeggi. Li schiaffeggio, voglio dire, secondo me sono masochisti, per cui, cioè, io sono sempre stato un pessimo cristiano, porgere l'altra guancia mi trovo male. Vedi, questo è il punto. È il fratello, mio problema. Fratello. Fratello schiaffo. A proposito di fratelli, consentimi di dire solo una parola, perché è scomparsa una delle persone che a me erano molto care, ma non a me, perché... ho visto che cosa ha fatto negli anni, Giovanna Cavazzoni, oltre novantenne, Giovanna Cavazzoni decenni fa, poiché aveva un cuore di fuoco, un'anima generosa, ha dato vita a una di quelle che è diventata poi le grandi sigle del volontariato italiano e che poi ne ha fatto generare tantissime analoghe, Vidas. Ecco, i volontari di Vidas hanno assistito negli anni oltre 30.000 malati terminali in Italia. L'assistenza pubblica ai malati terminali non è esattamente una cosa su cui il welfare pubblico riluca. E Giovanna è stata una persona strepitosa, perché era indomabile. Chiunque l'abbia conosciuta avvertiva la scintilla di quelle persone superiori che in Italia, come nel resto del mondo, dell'umanità, ci sono, e però sono portatori di questa fede assoluta nel fatto che si riesce a fare l'impossibile. Lei è riuscita a fare decenni fa l'impossibile, cioè, e vi assicuro, la lezione di persone così e dei volontari che stanno in Vidas, come tante altre sigle che si occupano di queste cose, per me è sempre stata una cosa di fronte alla quale dico: io non sono bravo come loro. Lo dico solo perché si parla di sofferenza, si parla di vita, si parla di organizzazione di servizi, si parla di gente che sa far girare i numeri. E grazie Giovanna, perché veramente ha insegnato secondo me a tanti che cosa vuol dire in silenzio fare cose che restano nella vita. Allora sentiamo intanto Ferruccio De Bortoli e alla testa di Vidas. Ferruccio, lo sai che hai da fare almeno tanto bene quanto ha fatto Giovanna per tanti decenni. Fabio dalla provincia di Perugia ci chiama, prego Fabio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo solo dire una cosa, non ho capito il conteggio che ha fatto il signore prima su l'IMU di un fabbricato. L'IMU di Asso Lombardo, parlava di 14.000 euro fino a qualche anno fa e adesso era 42.000. Sì. E lui ha parlato di 198% di aumento, invece è il 300%, perché 14 per 3 fa 42. E sull'altro l'altro non è il 300 ma... il 400 sull'altra contesta. Le spiego, le spiego, perché avendo letto i pezzi di carta di Asso Lombarda, lui ha citato la cifra degli aumenti medi che ci sono stati. Naturalmente nella media significa che non è che l'esempio che abbia fatto del capannone 15.000 metri quadrati, siccome Milano realtà urbana, sia la media di tutte le aziende manifatturiere che hanno, operano su Milano, perché come ovvio i capannoni li hanno anche fuori Milano, soprattutto fuori Milano. Quindi l'aumento medio è quello che ha citato, del 198% e del 200% in un altro caso. L'altra invece che ha fatto con l'esempio classico, che è quello capannone 15.000 metri quadrati, ufficio terziario di superficie di 500 metri quadrati, complimenti a lei che ha visto la differenza del dato medio all'esempio classico, ma perché l'esempio classico non è quello del dato medio. Grazie e oh, ascoltatori così, Mario, avercene! Assolutamente. Precisi come chirurghi, devo dire la verità. Grande Fabio. Pier Francesco da Venezia. Pronto? Sì. Sono in linea? Sì, grazie, dica, dell'ospitalità. Dica, prego. Allora, l'esempio concreto. Mia figlia ieri mi dice... guarda papà, noi col direttore sanitario abbiamo deciso di rinunciare agli 80 euro. Il motivo è semplice, 1500 circa retribuzione netta mensile di questa categoria fa sì che con qualche straordinario, qualche reperibilità, robetta da 1000 euro all'anno, alla fine dell'anno scatta nella famigerata aliquota del 28.000. Sì. Di 28.000, quindi con i 30, eccetera. Eh già, il 38%. E trovano dei conguagli mostruosi. Allora, lei a dicembre ha trovato, avendo un bambino piccolo, ha fatto meno reperibilità, ha trovato 800 euro che 1.500. Mm. E altri colleghi hanno trovato 400-500 euro. Mm. Quindi, continuate a dare i numeri, mi raccomando. No. Ma questo, questo aspetti, lei ha toccato un punto. Questo va, è fondamentale, esatto. Perché se quei 10 miliardi annui fossero stati utilizzati per smorzare, ammorbidire la curva delle aliquote marginali effettive, che è terribilmente ripida proprio per import, per imponibili così modesti, perché di modesti si tratta, in questo momento noi non avremmo le incongruenze, i paradossi che lei sta segnalando, per cui io sono assolutamente d'accordo. In questo paese c'era da lavorare sulla curva, sulla pendenza della curva delle aliquote marginali effettive. Noto che adesso Filippo Taddei si è accorto di questa cosa, ci sono fior di documenti, uno è apparso anche 2 anni fa sulla voce.info, credo che fosse quello di Borri, Reichlin, esatto, ed altri, che indicava già tutto, incluso il cartellino del prezzo, ed era circa 2/3 dell'importo destinato agli 80 euro. Questo è il problema che lor signori non riescono a farsi entrare in testa. Hanno buttato via 2 anni e 10 miliardi annui sugli 80 euro. Noi siamo duri nel modo in cui lo esprimiamo, ma quando le risorse sono limitate, la scelta delle priorità e degli strumenti deve diventare a maggior ragione chiara, perché sennò si dissipano risorse. Perché pare siano risorse scarse, no? Se si chiamano appunto così, ci sarà un motivo. Appunto. Allora, Donato da Perugia, prego Donato. Sì, buongiorno. Senta, innanzitutto complimenti a lei, a Seminario, per la trasmissione, continuate così. Grazie. Poi volevo intervenire sul quello che ha detto il professore Marattin. Sì, ecco, non faccia come Togliatti, che fingeva di dimenticare il cognome degli interlocutori. Togliatti e poi Emilio Fede, oltre che Togliatti, ecco. No. Dicevo appunto, chiedevo un vostro chiarimento. In relazione a quello che ha detto il professore, io nella mia ignoranza ho capito che tutti i discorsi di calo di tasse, IRPEF, cuneo fiscale, IRAP e compagnia bella, è il solito bla bla bla e lo storytelling di Renzi. Lei è un gufo allora. No, è andato di fatto. Ma perché lo ha capito? No, dica, lui ci ha detto, dipendesse da me farei l'IRPEF, però attenzione. Lui ha detto un'altra cosa, quando voi avete detto tutte le cose che vogliono fare, lui ha detto, dice, beh, vabbè, quello che si dice, però poi dopo è da vedere, insomma, ha detto questo, cioè, in altre parole, ci sono poi le scelte politiche. Allora, Marattin ha detto che la flessibilità che abbiamo ottenuto sul 2016 vale per spese e deficit che abbiamo già fatto, per cui cioè non è che ce lo dobbiamo spendere. Questo è esattamente quello che ha detto il professor Marattin. Poi dopo, giustamente, se Renzi tiene a far vedere che ci sono sgravi fiscali a ogni angolo di strada, poi la realtà sta in quello che diceva prima il nostro ospite, poi i fatti sono assolutamente cocciuti e hanno la testa dura. Cioè, vedo che c'è Oscar che incrocia i polsi, quindi è già pronto per le arance a San Vittore. Tanto abbiamo fuori Carlo Alberto e Renato, quindi possono portarcele loro. No, era semplicemente pari al fatto che a maggior ragione noi abbiamo stesso latino, cioè noi intendiamo semplicemente svolgere un compito maieutico, come devo dire, cioè sottolineare che la somma di tutti gli annunci che bombardano i mezzi di informazione, e vi assicuro che il richiamo ai mezzi di informazione a segnalare ogni singolo annuncio in materia fiscale è assolutamente metodica e pervasiva, questo ve lo garantisco, cioè lo ripeto, noi stiamo assistendo, per chi è dentro l'informazione, all'erezione di un sistema che prima non esisteva in questa forma in questo paese e che nessun governo di quelli recenti ha messo in piedi. Loro giustamente sono molto convinti che la comunicazione debba essere efficiente e quindi sono molto efficienti nel richiamare i direttori, i vice direttori, i capi redattori, eccetera, a dire: avete visto questa cosa? Questa cosa si dice così, così, così. Alla RAI ovviamente ottengono la piena adesione, dalle altre parti comunque un tasso di adesione molto elevato. Il nostro compito qua è quello di dire: fatti tutti questi annunci, a seconda dei quali ciascuno come venisse realizzato costerebbe X, poiché Maratin intanto ci dice, meno male, giustamente, guardate che noi abbiamo dei vincoli sul bilancio l'anno prossimo da rispettare, non c'è copertura per tutta questa roba, perché io sui grandi tagli di spesa, le cifre di spesa al rapporto IST vi dicono in termini pluriennali che la spesa ha sempre il segno più, moderatamente, ma c'ha sempre il segno più. Allora, di fronte a tutto questo, vedremo che cosa capiterà. Intanto siamo nella fase in cui interessa però il bombardamento alla gente, perché si vota le amministrative, si vota, lo sapete, il referendum a ottobre. Dopodiché, piccolo problema, come si può ottenere il referendum a ottobre, visto che a ottobre c'è la legge di stabilità che le scelte le ha già fatte? Ecco, questo sarà il punto di fondo, perché questo significa, caro Mario, che le scelte saranno pesanti, impregnate all'idea che devono essere i più tra virgolette efficaci nel breve possibile, se vogliono portarsi a casa il referendum. Infatti il nostro ciclo elettorale ormai si è ampliato, allargato, deformato, ci sono elezioni ogni anno, fossero anche i referendum sulle cosiddette trivelle, che trivelle non sono, c'è sempre da votare su qualcosa come guerra di religione. E quindi io la vedo veramente male, la vedo veramente male. Va bene, ma noi abbiamo però questa non è una novità, no, diciamo. Appunto, esatto. Esattamente. Allora, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati ai conti della Belva, con i nostri ascoltatori ci dicono: Fabio ha sbagliato, i conti erano giusti, eccetera, eccetera. Ma lei, caro Giannino, queste analisi finanziarie fa conoscere a Padoan, quale sta parlando Corinna a proposito dell'ascoltatore che dice che si risolve tutto con l'esproprio della rivoluzione francese dei beni della Chiesa. Guardate, non credo effettivamente che siano delle proposte risolvi debito italiano. Posso fare un appello agli ascoltatori? Sì. Quando digitate, fate un respiro profondo, ma non per i contenuti, no, perché digitate, non si capisce niente di quello che digitate, ci sono errori di battitura. Vabbè, ma dai, poi questa ma gente non che fatevi, magari sta in macchina, non stanno in macchina, devono finire male, stanno digitando in macchina, no, questo lo dico a una persona in particolare, diciamo, non facciamo i gufi, chi mi sta ascoltando, non facciamo i gufi, vuol dire una a caso, coraggio, allora fermo, cioè il nostro è arrivato Wecky Tromboni, siete siete tanto peggio, tanto meglio. Per cui alla fine un aspetto positivo. Vedi, c'è. Ma io ti assicuro, noi teniamo compagnia a questi problemi. Ma noi siamo una guardia psichiatrica. Noi siamo una guardia psichiatrica del sabato. Noi siamo un'autoguardia, talvolta abbiamo bisogno noi per primi. Sì, Renato Cifarelli ci ha raggiunto. Renato, come stai? Bene, buongiorno, voi come state? Tu che sei un uomo vero, un uomo del fare, che hai lasciato questi maledetti pettegoli. Qui abbiamo gli ascoltatori che dicono: è la prova, la vostra trasmissione fa schifo, Renato Cifarelli, che è un uomo che ha molto da fare, cose importanti, non viene più. È il nostro uomo denim, quello che non deve chiedere mai. No, non è vero che non vengo più, dai, prometto che vengo. Oggi purtroppo avevo da lavorare, ma prometto che torno e vengo. Senti, questi hanno sprecato le battute, perché siccome c'avevi le ragazzine, le steggiste del sabato, ti hanno riempito la vita, abbiamo pensato che con qualcuno hai prolungato. Gatto che con sette anni no, vabbè, dai 7 ai 14 non mi sembra, no, proprio avevo capito dai 17 ai 24, no. Allora, dai 17 ai 24 non me le lascia portare la mia compagna. Fa bene. Allora, venendo invece a non si può fare, no, qual è? Senti, vi volevo raccontare un paio di cose locali, sai che io ogni tanto leggo il giornale locale e mi diverto. Sì. Allora, a San Martino Sicomario, che è un posto qua vicino, c'era una piazza che era stata intitolata Enrico Berlinguer, no? Certo. Poi è arrivato il nuovo sindaco e l'ha fatta ritornare Piazza Unità d'Italia. Poi è cambiato di nuovo il sindaco, che è tornato un sindaco di sinistra. È ritornato a Berlinguer. Ed è ritornata naturalmente Piazza Berlinguer, in mezzo ai cittadini. Adesso io non mi ricordo come sono le regole quando cambia la residenza, sai che poi devi cambiare tutto sul libretto della patente, il libretto delle macchine, la patente, tutte queste cose qua, però a me fa un po' ridere che poi arriva e ogni sindaco naturalmente a seconda di quella che è il suo colore politico rintitola le piazze. Invece una cosa altra divertente a Pavia. Comunque vedrai che verrà presto il ciclo, se il referendum va in un certo modo, che troveranno la soluzione per accontentare sia chi lo voleva leader eponimo del Partito di Sinistra che Unità, perché sa, Piazza dell'Unità d'Italia rifatta da Matteo Renzi, punto, così sono tutti d'accordo. La chiamano Piazza Unità d'Italia e dedicata a Enrico Berlinguer, così magari... No, rifatta da Matteo Renzi, così siamo tutti d'accordo. Allora... Pavia, c'è una multinazionale che è stata ceduta, no? E ci sono ancora le vecchie insegne con sopra un telo. Non so se sia vero, mi piacerebbe che qualche geometra all'ascolto ci illuminasse, ma mi hanno detto che per togliere le insegne bisogna fare lo studio di impatto paesaggistico. No, come per toglierle? Per toglierle. Io posso anche capire per metterle, anche se... ma per toglierle. Per toglierle, perché oramai... la facciata, evidentemente. Ma no, perché oramai sono diventate parte integrante del paesaggio, per cui ma se no, le to... no. Il problema vero, guarda, io sto mettendo a posto una cosa che avevo fatto dietro per riparare le macchine dietro a casa. Il problema vero è che ormai dobbiamo dare del lavoro, cioè... Una delle cose che si stanno facendo è trovare il lavoro ai professionisti e quindi continuiamo a mettere leggi, leggine, leggiucchiette, leggine, commi, eccetera, eccetera, in modo che tu devi per forza chiamare il professionista qualsiasi cosa devi fare, compreso togliere o mettere un'insegna, hai capito? Secondo me ormai siamo a questo punto qua. Ed è questo. Ma guarda che, in realtà quella che tu avanzi come paradosso, secondo me è molto, non è affatto un paradosso, è una delle spiegazioni vere del perché ci sia un continuo flusso di produzione legislativa che contempli, come ovvio, non solo procedure pubbliche, eccetera, eccetera, ma il coinvolgimento di alcuni albi, per essere chiari. Poi non dimentichiamoci che ogni volta che tu devi chiedere un'autorizzazione c'è un burocrate che deve dartela, e quindi con tutto ciò che ne consegue. No, anche ti correggo, uno mai, molti più che uno. Vabbè, una serie di burocrati che devono dartela, insomma, l'autorizzazione. Poi a pensar male pensi certe cose, a pensar bene dici se non altro li creiamo il lavoro questi poveri burocrati. Però è fantastico, dai. Bisogna fare la valutazione di impatto ambientale, levare le... Ho avuto una settimana pesante, non ho approfondito i consulenti, però... già il fatto che sia credibile la cosa, secondo me spiega molte cose dell'Italia, insomma. Nessuno noi si scandalizzi che possa essere vero, dice molto sulla burocrazia italiana. Il bello è che mentre per le imprese, questo per essere chiari, e gli ultimi decenni hanno prodotto una proliferazione di questi obblighi di valutazione di impatto, noi manchiamo invece della valutazione di impatto regolatorio delle norme. Questo ma noi è più che impatto ambientale, impatto mentale in esatto. Questo paese. Cioè, come dice sempre la nostra amica Vital Balzolini che lavora in Consum, la cosa fenomenale è che noi chiediamo ogni genere di valutazione ai privati e lo Stato e il legislatore invece emanano norme senza valutazione di impatto regolatorio delle diverse fonti legislative, cosa che nei paesi avanzati si fa da tempo, con metodologie che sono evolute nel tempo, hanno coinvolto ovviamente diverse scuole economiche, perché anche lì la metodologia è cambiata nel tempo, ed è un grande dibattito aperto su quello come si misurano le conseguenze economiche delle decisioni regolatorie. Fatto sta che la politica italiana e la pubblica amministrazione italiana in questo se ne è sempre guardata, ha tagliato la testa al topo, l'impatto regolatorio ex ante delle norme non si fa mai, esatto. E buonanotte, esatto, ai suonatori. Caro Renato Cifarelli, sentimi, ci dai dal tuo punto di vista, dal punto di vista del vostro settore, della vostra azienda, segnali di questi ultimi mesi, eccetera, eccetera, come prima, un po' più ridenti, com'è la prospettiva? Ma noi lavoriamo molto all'estero e ti devo dire che vedo un certo rallentamento. Aia, in generale. Anche tu. In generale vedo un certo rallentamento, un po' meno entusiasmo, Poi ci sono, vabbè, noi abbiamo alcuni paesi che hanno problemi specifici, tipo l'Egitto che sta avendo grossi problemi a trovare la valuta pregiata per pagare. Siccome abbiamo questo piccolo problema che vogliamo essere pagati. Comunque anche dal vostro punto di vista, quindi stiamo parlando, ricordiamo ai nostri ascoltatori, macchine per agricoltura. Comunque anche lì la domanda mondiale, come vedete, è... come si vede purtroppo anche negli apporti che dà al PIL italiano, è in difficoltà. Il commercio globale sta rallentando. Grazie Renato Cifarelli, grazie a tutti voi che siete stati in ascolto, buon fine settimana, grazie a Mario Seminerio e grazie a quello che ci dà tutti i messaggi sui wacky tromboni. Guarda, senza di noi la tua vita, il tuo sabato mattino sarebbe vuota, quindi sei un pezzo della nostra famiglia. Sei un pezzo soprattutto. L'Italia, l'Italia, le vesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte.